Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi si parla di innovazione. La domanda è: ma le fabbriche italiane sono abbastanza innovative e le aziende italiane lo sono? Per questo motivo vi ho appena fatto sentire una canzone che in qualche modo parla di innovazione, anzi è una canzone poesia. C'è Florence plus The Machine, che è un gruppo britannico, che vi ha appena eseguito un pezzo di Strangeness and Charm, una lirica che parla di elementi e di atomi, intrecciando chimica e fisica fino ad arrivare a due quark, l'unità della materia. Cioè si parla di chimica, di fisica, di tecnologia, che è quella che dovrebbe essere alle basi dell'innovazione nelle fabbriche, innovazione di cui c'è un grande bisogno. Ne parliamo con tre ospiti. Il primo è Carlo Bagnoli, che insegna innovazione strategica all'Università di Ca' Foscari. Poi abbiamo Alessandro Reggiani, che è l'amministratore delegato di Primi sui Motori, e infine Luca Concone, che è un imprenditore molto noto e che ci parlerà dei wearable. Allora, buongiorno a Carlo Bagnoli, che è un ospite un po' fisso per noi. Buongiorno a tutti. C'è abbastanza innovazione, secondo lei, nelle fabbriche italiane? No, assolutamente. Siamo, credo, molto indietro. Esistono chiaramente delle eccellenze riconosciute a livello mondiale, però quello che manca proprio è la cultura, l'innovazione. Quindi la chiara consapevolezza che fare innovazione in tutte le sue forme è il piano A per le nostre imprese per rimanere competitive e che non esiste un piano B. Quindi è un problema culturale proprio. E infatti io dico sempre, l'ho scritto anche nel mio libro Industriamo l'Italia, che l'Italia è un paese vecchio, di vecchi e per vecchi. Da noi c'è un po' un paradosso: quasi tutte le innovazioni manifatturiere che hanno cambiato il mondo hanno un padre italiano, la plastica, il telefono, l'elicottero, il personal computer. Eppure, secondo lo European Union Scoreboard del 2016, l'Italia viene definita un innovatore moderato. In realtà è un innovatore scarsissimo, perché siamo 18esimi su 28 paesi dell'Unione Europea e siamo superati da tutti i nostri concorrenti, Germania, UK, Francia, Olanda, e riusciamo solo a fare meglio di paesi come la Grecia, Malta e Cipro. Eppure da noi, Bagnoli, ci sono tanti piccoli imprenditori che sono innovativi. Ma la differenza in realtà che spiega questo paradosso sta nella differenza tra l'invenzione e l'innovazione. L'invenzione è frutto della creatività del singolo, che a un certo punto immagina la plastica, che a un certo punto immagina il telefono e via dicendo. Questa è invenzione. L'innovazione invece è rendere questa invenzione in qualche modo marketable, cioè portarla sul mercato generando ricavi e generando profitto. Per portarla sul mercato occorre non l'inventiva di un singolo, ma occorre una cultura dell'innovazione delle nostre imprese che, presa l'invenzione, la rendano effettivamente generatore di profitti. Ed è questo che manca nelle nostre imprese, non l'inventiva del singolo, che può immaginare modi nuovi per soddisfare bisogni magari neanche riconosciuti, ma quello che manca è proprio un tema culturale organizzativo che metta l'innovazione al primo posto. I nostri imprenditori sono ancora troppo concentrati nel risolvere i problemi contingenti e non hanno il tempo, ad esempio, di porsi invece il come introdurre una cultura dell'innovazione all'interno dell'organizzazione. Ma come si fa a introdurre una cultura dell'innovazione all'interno delle organizzazioni aziendali? Beh, innanzitutto gli imprenditori dovrebbero crederci, e invece, nonostante i tanti convegni in cui tutti declarano l'importanza dell'innovazione, che nessuno in qualche modo rigetta, alla fine, nel momento in cui gli si chiede di dedicare del tempo a pensare alla loro organizzazione, a pensare come poterla innovare, hanno altro da fare, hanno il problema che una commessa deve essere chiusa, hanno il problema che devono andare all'estero, hanno il problema che devono fare un'occasione per concrete. Innovare questo paese potrebbe essere l'Industry 4.0. Assolutamente. Ecco, lì però si è presa una direttiva in qualche modo strana, perché ci si sta concentrando molto sui benefici fiscali, quindi, come dire, esiste un beneficio fiscale, quindi investe indipendentemente dal senso che ha questo investimento, piuttosto che si è preso, negli aspetti più positivi, il tema dell'Industria 4.0 come un momento per recuperare efficienza, quindi per fare efficientamento. Il problema è che le nostre imprese stanno soffrendo sui mercati mondiali, e se anche recuperano efficienza oggi sfruttando le nuove tecnologie messe a disposizione da Industria 4.0, non è che i loro competitor stranieri non utilizzino queste tecnologie per efficientare. Quindi ci troveremo tutti più efficienti, ma sempre in difficoltà le nostre imprese rispetto ai player internazionali. Penso ai tedeschi, penso agli statunitensi, ecco, penso ai coreani. L'Industria 4.0 è al centro della Biennale Innovazione, che è questa grande manifestazione che fa ogni anno l'Università di Ca' Foscari dedicata all'innovazione. Ci vuole dire che cosa farete quest'anno? Beh, noi abbiamo cercato proprio di affrontare quello che ci sembra un gap sostanziale nel immaginare l'Industria 4.0 come driver di innovazione. Sicuramente, ribadisco, l'Industria 4.0 permetterà di rendere i processi più efficienti, permetterà anche di aggiungere funzionalità. Quindi lo scopo della Biennale Innovazione di quest'anno è immaginare l'Industria 4.0 come occasione di innovazione, giusto? Sì, ma innovazione a livello di modelli di business. Quello che l'Industria 4.0 può permettere, l'Industria 4.0, se vuole proprio la cosa più evidente, abbatte gli effetti positivi dell'economia di scala. Quindi la scala, la dimensione, sembra essere non più una variabile. Quando si tiene la Biennale dell'Innovazione quest'anno, professore? Il 23 e il 24 giugno a Venezia. Quindi sono un venerdì e un sabato? È un sabato tutto il giorno. Ma può partecipare chiunque si iscriva? Sì, assolutamente. Beh, diciamo, è rivolto a imprenditori e top manager, nel senso che il livello della discussione è molto alto, e ribadisco, l'obiettivo è quello di immaginare come l'Industria 4.0 possa portare le imprese a cambiare il proprio modello di business, quindi a cambiare il modo di fare competizione, non solo di migliorare quello che stanno facendo adesso. Insomma, una manifestazione interessantissima per chi vuole innovare la propria impresa. www.biennaleinnovazione.it. Adesso la dobbiamo salutare perché passiamo ad un altro ospite. Arrivederci, professor Bagnoli, e in bocca al lupo per la Biennale. Mi raccomando, partecipate numerosi perché è veramente importante. Allora, dopo aver parlato di innovazione nelle fabbriche col professor Bagnoli, andiamo da Alessandro Reggiani. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Lui è amministratore delegato di Primi sui Motori, che è una società quotata in borsa che si è data una mission importante, cioè l'alfabetizzazione digitale delle piccole e medie imprese italiane. Perché il tema è che non puoi fare innovazione nel terzo millennio in un mondo interconnesso se non c'è la banda larga, se non hai un sito internet, se non fai e-commerce. E noi in Italia, da questo punto di vista, pensate un po', siamo ancora molto indietro. Pensate che l'Italia è ancora al 23esimo posto in Europa per penetrazione della banda larga. Peggio di noi solo Slovacchia, Croazia, Bulgaria e Grecia. Meglio di noi sono perfino la Polonia e Cipro. Ma anche i dati sull'uso di internet come sistema per connettersi al resto del mondo sono veramente impressionanti, per quanto siano negativi. Solo il 50% delle PMI ha un sito in rete e solo il 5% fa e-commerce, e meno della metà dei siti delle PMI attive è ottimizzato per il mobile. Allora, Reggiani, fare un'alfabetizzazione digitale del nostro tessuto di imprese, che sono soprattutto piccole e medie imprese, è una mission impossible? No, non lo è, anche se è una missione ancora da percorrere. Noi è dal 98 che facciamo innovazione, come si diceva prima, non abbiamo inventato nulla, perché il SEO, il posizionamento sui motori di ricerca di cui accennava lei prima, non l'abbiamo inventato noi, però è dal 98 che stiamo proponendolo alle PMI italiane, proprio per far sì che queste PMI italiane possano trarre vantaggi dall'essere visibili su internet. Cioè voi proponete alle PMI un internet semplice e a basso costo, giusto? Semplice e con un costo misurabile in termini di ROI, cioè quindi indipendentemente da qual è il costo, la cosa fondamentale è che l'investimento fatto dalle PMI deve avere un risultato economico tracciabile. Questo, fortunatamente internet rispetto ad altri mezzi pubblicitari è tracciabile e misurabile, per cui è possibile effettivamente per la PMI italiana capire se quello che ha investito ha reso. Questo lo si vede anche dai nostri clienti che dopo averci sposato per un paio d'anni rinnovano i servizi e rimangono con noi a volte addirittura per 5, 6, 7 anni. Vabbè, tutte queste cose sono raccontate su www.primisuimotori.it. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità e poi ancora in linea con Alessandro Reggiani. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Vi sto ancora facendo sentire un pezzo di Strangeness and Charm, una canzone di Florence Plus The Machine che parla di atomi, chimica, fisica e quark, e evoca un po' il mondo dell'innovazione. L'innovazione nelle fabbriche è l'oggetto della puntata di oggi. Dopo aver parlato con Carlo Bagnoli, che insegna innovazione strategica all'Università di Ca' Foscari, stiamo parlando con Alessandro Reggiani, che è l'amministratore delegato di Primi Sui Motori. Ecco, Reggiani, voi avete appena state per lanciare un prodotto specifico per i distretti industriali italiani. Ci vuole spiegare di che cosa si tratta? Certo, allora, si tratta di Joe Impresa Italia. Nasce dal fatto che le zone industriali artigianali in Italia sono infinite e a noi è parso utile offrire non solo uno strumento digitale di catalogazione, cioè le classiche directory ben conosciute, ma anche una forma di comunicazione nuova, semplice, immediata e a basso costo. Quindi questo vuole essere un primissimo passo per uscire dall'anonimato, per far sì che un'industria appartenente a uno dei numerosissimi distretti industriali presenti nel nostro paese possa essere visibile, ovviamente in modo digitale. Ecco, senta, voi comunque fate innovazione digitale e cercate di alfabetizzare le PMI fino dal 1998. Avete avuto anche qualche momento non facile, però so che adesso c'è un piano industriale e un rilancio abbastanza ambizioso della sua società. Ce ne vuole parlare? Assolutamente sì, certo. Allora, sì, noi siamo dal 98 sul mercato e dal 2008 a livello nazionale, perché appunto siamo stati i primi a livello nazionale a alfabetizzare proprio le PMI italiane. Abbiamo passato momenti difficili e abbiamo avviato un progetto di turnaround aziendale che ha avuto il suo momento più importante l'anno scorso e stiamo proseguendo questo turnaround che ci vede impegnati a raggiungere questo piano industriale molto ambizioso. Ecco, ci vuole dire quali sono gli obiettivi del vostro nuovo piano industriale? Certo, l'obiettivo è quello di ritornare alla profittabilità già dall'anno prossimo per poi crescere in modo costante e sano. Questa è una cosa fondamentale perché siamo dal 98 sul mercato e riteniamo che sia fondamentale nel nostro settore poter essere un punto di riferimento anche per gli anni futuri. Che target di fatturato vi siete dati per i prossimi anni? Per i prossimi anni l'obiettivo è quello di arrivare al 2021 con un target di fatturato consolidato intorno ai 30 milioni di euro con un EBITDA di circa il 27%, quindi circa 8 milioni di euro. Ci sarà anche un aumento di capitale? L'aumento di capitale è appena terminata un'operazione di aumento di capitale che ha permesso di consolidare la società e quindi da questo punto di vista in termini di puri aumenti di capitale non ne sono più previsti, è prevista un'altra operazione che comunicheremo al mercato a brevissimo, ma le operazioni straordinarie diciamo che stanno terminando e il piano industriale è totalmente finanziato. So che di recente avete fatto anche un'alleanza con Google. Assolutamente sì, siamo dopo qualche anno in cui eravamo un po' reticenti a distribuire AdWords, in quanto noi facciamo proprio il SEO, il posizionamento sul motore di ricerca, che è un po' complementare alle AdWords, abbiamo deciso nel marzo di quest'anno di farla proprio con Google e di ampliare la gamma dei nostri servizi, riempendola quindi di tutti quei servizi legati anche ad esempio ai social, che permettono alla PMI italiana di essere completamente seguita sul web e di essere totalmente visibile. Benissimo, la devo salutare, però avremo altre occasioni di interagire con lei. Arrivederci Alessandro Reggiani, e oggi andiamo da Luca Concone. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, noi oggi in questa puntata parliamo di innovazione e c'è un tema di innovazione che va un po' oltre la solita cosa dell'Industry 4.0, che riguarda i wearable. L'Italia è particolarmente forte nell'abbigliamento interconnesso e i wearable per la salute sono un mercato che in prospettiva è importantissimo. C'è una società di market intelligence che si chiama Tractica che ha stimato che entro il 2021 ci saranno 98 milioni di wearable per la salute che trasmettono le condizioni dei pazienti, li monitorano e contribuiscono alla loro cura. Noi abbiamo parlato in tutto il ciclo di queste trasmissioni di robot e spesse volte abbiamo dovuto spiegare che i robot industriali aumentano la produttività e la qualità della vita. Un tema molto importante sui robot industriali è la loro applicazione nella medicina. C'è una ricerca di Eurisco che ha interrogato gli italiani su quali sono i campi nei quali in futuro ci sarà maggiore impatto da parte della tecnologia. Ebbene, 2/3 del campione ha risposto salute e ambiente. In questo contesto si va a collocare FamilyCare, che è una piattaforma per monitorare da distanza gli anziani o i ragazzini, per vedere se si verificano incidenti, se cadono, perché indossano un oggetto per vedere che è in grado di monitorare se ci sono delle cadute, dei colpi e dei problemi, anche di geolocalizzarli. Inoltre, questa piattaforma può, se ci sono dei problemi a entrare in contatto con la persona, fare sì che da remoto il parente attivi il telefonino e si senta nell'aria, e l'anziano viene raggiunto dalla voce del parente che entra nel suo telefonino. È così che funziona, dottor Concone? Sì, sostanzialmente funziona dando alle persone fra 40 e 60 anni, che sono un po' le persone più in difficoltà perché sono prese dalla vita di tutti i giorni e hanno la responsabilità sia verso l'alto, genitori, nonni, zii, sia verso il basso, i propri figli, di essere vicino a loro anche a distanza, per cui tramite la nostra piattaforma sono informati in tempo reale dal lato dei senior se la persona è caduta, se la persona si è sentita male, se non è raggiungibile, se si è allontanato da casa in orari strani. E soprattutto se ci sono problemi, loro possono entrare nel telefonino della persona che è magari un anziano, uno che non risponde al telefono, non lo sente, e anche se non chiama, questo qui sente la voce del figlio che in viva voce automaticamente esce dal telefonino e gli chiede: papà, tutto bene? Funziona così, no? Esattamente, premendo un bottone si attiva il telefono dell'anziano in viva voce al massimo volume, anche se è su muto, anche se è su silenzioso, il nostro sistema. Il vostro sistema che si chiama FamilyCare, qual è il sito internet? www.famil.care, direttamente è un non c'è un punto it né niente, è un punto care. No, niente punto it, punto e quindi praticamente care. Funziona anche per i ragazzini, cioè se il ragazzino non ti risponde al telefono, tu entri nel suo telefono che si accende e in viva voce si sente il padre e la madre che gli chiede: dove sei? Sì, non solo, possono vedere dov'è direttamente senza neanche disturbare il ragazzino. Ah, cioè vedono dov'è perché si geolocalizza il telefonino? Si geolocalizza il telefonino, in più vedono quante ore di videogiochi ha fatto, a che velocità si muove, magari va a 60-70 km all'ora e il genitore non è d'accordo, quanti gigabyte ha consumato, tutta una serie di... Anche le telefonate che ha fatto? No, le telefonate. Ah, accidenti. È un tema di privacy. Però la cosa importante è soprattutto questo oggetto che viene messo al collo dell'anziano o dell'handicappato o del ragazzino, che ha dei sensori, è un oggetto interconnesso, per cui se l'anziano cade l'oggetto se ne rende conto e lo trasmette al parente che lo monitora. Ecco, una cosa molto importante è questo bottone. Che è un bottone da mettere al collo, sì. È un bottone da mettere al collo, molto semplice. È impermeabile, per cui si indossa anche sotto la doccia facendo il bagno, che è uno dei luoghi dove è più facile scivolare e cadere. Si attiva automaticamente, perché quando uno scivola può tranquillamente battere la testa ed essere inconscio. E sostanzialmente non ha mai bisogno di essere ricaricato. È fatto in materiale medicale, per cui lo puoi tenere a contatto della pelle per 2 anni. E noi sostituiamo direttamente l'intero bottone quando la batteria si esaurirà fra 24 ore. Comunque, il prodotto si chiama Femil Car, www.femil.car, giusto? Punto care, con la finale. Care, certo, io lo leggevo all'inglese, care. E voi avete costituito una società che si chiama Easy Life, che è una startup che però non è solo in Italia. No, la startup in questo momento è attiva in Germania, Francia, Italia e Inghilterra, quindi un potenziale di 80 milioni circa di consumatori. È una startup innovativa italiana e quindi come tale ha goduto del supporto di banche italiane e dei fondi del governo. Senta una cosa, ma voi quanti bottoni di questo tipo pensate di vendere? Noi pensiamo di farne 200.000 entro l'anno e 1 milione entro l'anno prossimo. A livello europeo? A livello europeo. Tra l'altro, dottor Astone, una cosa importante, il bottone è solo il primo di questi servizi. Quando lei si riferiva poc'anzi ai wearable, se sua nonna indossa un monitor del glucosio per il diabete o un monitor cardiaco, noi possiamo integrare anche tutti questi altri wearable nella stessa piattaforma. Ah, interessantissimo. Quindi si monitora l'anziano. Esatto, ma se la persona non deve essere in casa, perché sostanzialmente uno può andare ai giardinetti, sentirsi male ai giardinetti, il nostro sistema manda un SMS geolocalizzato a lei e a tutti quelli che lei decide, il vicino di casa, il portinaio, il cugino, chi è, dicendo. Ma dove posso metterlo per monitorare la moglie e la fidanzata se mi tradisce perché dalle vibrazioni si capisce qualcosa? La risposta è no, non solo, è illegale e noi lo sconsigliamo ovviamente, sono software apposta. Senta, invece torniamo a una cosa seria con la quale chiudiamo la trasmissione. Si può fare innovazione in Italia, secondo lei? Lei è stato alla McKinsey, al Comune di Milano, in un sacco di posti. Mi dica un sì, un no e un perché sì. In 10 secondi. Sì, dipende tutto dall'imprenditore. Deve avere la voglia di farla e la capacità di sacrificio. Però l'Italia, io che ho fatto aziende in Francia e in Inghilterra, non è diversa dalle altre nazioni sviluppate. Benissimo, purtroppo dobbiamo chiudere. Salutiamo e ringraziamo Luca Concone. Buon sabato a tutti. Noi ci sentiamo domani, che è domenica, alle 13.10.